Riprodurrò ora il brano di una lettera, anche se non è esattamente di questo periodo. La cito perché si riferisce a una terza proposta di matrimonio. Immagino che, data la straordinaria forza con cui descrive l'amore nei suoi romanzi, i suoi lettori la credano molto suscettibile alle sue sollecitazioni. Potrei mai nutrire un sufficiente sentimento per X da accettarlo per marito? Amicizia, gratitudine, stima, le provo. Ma ogni volta che mi viene vicino e vedo i suoi occhi fissi su di me, nelle mie vene scorre il gelo. Ora che è lontano, provo per lui sentimenti di gran lunga più gentili e solamente quando è vicino che mi irrigidisco, provando una strana mescolanza di apprensione e di irritazione che nulla fa cessare se non il suo ritirarsi e una perfetta soggezione dei suoi modi. Non volevo mostrarmi superba, né essere superba, ma fui costretta a esserlo. È assolutamente vero che siamo governati dall'alto, da uno che ci sovrasta, che nelle sue mani la nostra volontà è simile a creta fra le mani di un vasaio. Ho già parlato di tutte le proposte di matrimonio che le vennero fatte, finché non fu la volta di quella che finalmente accettò. Il gentiluomo cui facenno nella lettera qui sopra conservò tanta considerazione per lei da restarle amico finché ella visse, fatto questo che dà credito sia a lui che a lei. Prima che l'amica E si congedasse, Mr. Bronte prese freddo e per alcune settimane stette piuttosto male per un accesso di bronchite. Si depresse molto moralmente e ogni sforzo della figlia tese a riconfortarlo. Dopo che il padre migliorò ed ebbe riacquistato forza, Charlotte, accettando un invito ricevuto tempo prima, decise di recarsi a Londra. Quell'anno, il 1851, fu, come tutti ricordano, quello della grande esposizione, ma anche, con quell'attrazione in prospettiva, non aveva intenzione di rimanere a lungo. Come al solito, chiese agli amici la promessa di non farle incontrare molta gente. Dovevano garantirle giornate quanto più quiete possibili perché ogni altro ritmo di vita non le si confaceva, sia mentalmente che fisicamente. Se qualcosa la spingeva a intervenire nella conversazione, si eccitava e ciò avveniva di frequente, anche a proposito di inezie. La reazione che seguiva la lasciava esausta, le dava un'aria stravolta, dimagriva, anche se sosteneva che invariabilmente il cambiamento d'ambiente in seguito le giovava. I preparativi del vestiario per questa visita, in quell'allegra stagione, furono specchio del suo gusto femminile. Scelse ogni cosa in modo da soddisfare la sua preferenza per gli abiti modesti, eleganti, dagli ornamenti precisi, senza trascurare quanto la metteva in valore, ma senza perdere di vista i limiti delle sue risorse finanziarie. A proposito, volevo chiederti di fare una commissione per me quando vai a Leeds, ma temo che tu sia già troppo impegnata per conto tuo. Si tratterebbe semplicemente di questo. Se ti capitasse di entrare in uno di quei negozi che vendono le cappe di pizzo, sia bianche che nere, di cui ti parlai, chiedine il prezzo. Suppongo che sarà difficile mandarne a Haworth alcune in visione. Se fossero molto care sarebbe inutile, ma se il prezzo è ragionevole e se acconsentono a mandarle mi piacerebbe vederle. E anche alcune camicette di taglia piccola. La taglia da donna è troppo grande per me, sia semplici per tutti i giorni che più belle per eventuali occasioni. Sembra che io non possa mai essere soddisfatta di quanto possiedo. Ti dissi che avevo preso uno degli scialli di pizzo nero, ma quando l'ho provato sul vestito di raso nero col quale intendo portarlo, l'effetto fu lungi dall'essere buono. La bellezza del pizzo, che prese non so che sfumatura rugginosa, andava perduta. Scrissi a Mister, chiedendogli di scambiarlo con uno scialle bianco dello stesso prezzo. Egli fu estremamente cortese e ne fece venire da Londra uno che ho ricevuto stamane. Il prezzo è minore, costa solamente una sterlina e 14 scellini. È bello, semplice, leggero, sta bene sul nero. E dopo aver considerato ogni cosa, giunsi alla filosofica conclusione che non sarebbe vergogna per una persona dei miei mezzi indossare un indumento di più basso prezzo. Penso perciò che lo terrò e se mai capiterà che tu lo veda e lo qualifichi come vistoso e a buon mercato, è tanto peggio. Sai che sono andata a Leeds lo stesso giorno in cui ci sei andata tu, mercoledì scorso? Avevo pensato di farti sapere dove intendevo recarmi e avere così la tua compagnia e il tuo aiuto nella scelta di una cuffia, ma ho poi riflettuto che sarebbe equivalso a fare un uso egoistico di te e ho deciso di trattare e bistrattare la cosa da sola. Sono andata da Hearst e Hall per la cuffia e ne ho comprata una che sembrava grave e quieta in mezzo a tutti quegli splendori, ma ora mi sembra infinitamente troppo gaia con la sua fodera color rosa. Ho visto dei bei tessuti di seta di tinte pallide e soavi, ma non avevo né inclinazione né mezzi per slanciarmi a spendere 5 scellini al metro e finii col comprare una seta nera a 3 scellini. Mi rincresce di averlo fatto, perché papà ha detto che se l'avesse saputo mi avrebbe imprestato una sovrana. Se fossi stata con me mi avresti costretta a indebitarmi. In verità non mi è possibile venire a B prima di andare a Londra, più di quanto mi sia dato di volare. Ho da smaltire una quantità di cucito, da organizzare le faccende di casa prima di partire, di modo che facciano le grandi pulizie durante la mia assenza. Inoltre, sono dolorosamente afflitta dal mal di capo, per sollevare il quale confido nel cambiamento d'aria. Ma nel frattempo, siccome procede dallo stomaco, mi riduce molto magra e grigia. Né tu né chiunque altro riusciresti a farmi ingrassare e a mettermi in buone condizioni per la visita. Non è destino. Non importa. Calma le tue apprensioni. Tuttavia mi fa piacere verificarle. Tanta foga significa buona salute. Addio, in tutta fretta. La tua povera mamma è come Tabby, Marta e papà. Quanta fantasia nell'immaginare che a Londra, in un modo o nell'altro, grazie a un misterioso procedimento, mi debba sposare o perlomeno fidanzare. Come ne sorrido tra me e me. Quanto questa idea è senza base e improbabile. Papà mi ha detto seriamente che se dovessi sposarmi smetterebbe di tener casa e andrebbe in pensione. Trascrivo quanto segue per la descrizione della brughiera coperta di Erika sul finir dell'estate. A Sydney, Double, 24 maggio 1851. Caro signore, mi affretto a inviare l'autografo a Mrs. Double. Era stata la parola album a spaventarmi. Pensavo che desiderasse che io vi scrivessi un apposito sonetto, cosa che non avrei saputo fare. La sua proposta di un viaggio in Svizzera è più che gentile. Mi attrae con la forza di una tentazione, ma il severo impossibile mi trattiene. No, non posso andare in Svizzera quest'estate, perché il direttore di Eclettica ha cancellato il brano più vigoroso e pittoresco. Non può essere rimasto insensibile alla sua bellezza. Forse lo ha trovato profano, poveretto. Non so nulla di una contrada tutta giardini e orti quali lei descrive. Non ho mai visto una simile regione. Le nostre colline rivelano l'avvicinarsi dell'estate, ornandosi di verdi, giovani felci e di muschio nei valloncelli segreti. La fioritura è riservata all'autunno. Allora ardono con una cupa lucentezza diversa senza dubbio dal fresco rossore dei fiori dei giardini. Verso la fine del mese prossimo penso di recarmi a Londra per farvi una breve quieta visita. Penso che il caso non sarà tanto propizio da condurla in città durante il mio soggiorno. In caso contrario, sarei tanto lieta se mi facesse una visita. Un cordiale pensiero per Mrs. Double, mi creda sinceramente sua, Charlotte Bronte. La lettera successiva viene da Londra, 2 giugno. Sono arrivata qui mercoledì, un giorno prima di quanto mi aspettassi, per assistere alla seconda conferenza di Thackeray, che ebbe luogo giovedì pomeriggio. Questa, come facile supporre, è stata una vera festa per me e fui lieta di non perderla. Si tenne in Willis Room, dove si svolgono i balli. È un grande salone ricco di dorature, con lunghi sofà per sedersi. Mi hanno detto che l'uditorio era costituito dalla crema della società londinese e ne aveva l'aria. Non mi aspettavo che il grande conferenziere mi riconoscesse, né che mi notasse in quelle circostanze, tra file e file di duchesse e contesse trasudanti ammirazione, ma mi venne incontro quando entrai. Mi strinse la mano e mi condusse da sua madre, che non avevo mai incontrata prima di allora, e mi presentò. È una bella, fine, vecchia signora dall'aspetto giovanile e fu molto gentile e mi fece visita con una delle nipoti il giorno seguente. Thackeray mi fece visita anche lui, separatamente però. Ebbi una lunga conversazione e penso che ora mi conosca un po' meglio di prima, ma di questo non posso essere sicura. Le sue conferenze fanno furore. Sono delle specie di saggi caratterizzati dalla sua personale originalità e forza, e pronunciate con una spigliatezza e un gusto impossibile da descrivere. Proprio prima che la conferenza avesse inizio, qualcuno mi giunse alle spalle, si chinò in avanti e disse: «Permetta, in quanto conterraneo, che io mi presenti». Mi voltai, vidi un viso estraneo, non bello, che mi lasciò incerta per un mezzo minuto e poi dissi: «Lei è Lord Carlyle?» Egli assentì e sorrise. Mi parlò per alcuni minuti assai piacevolmente e cortesemente. In seguito si fece avanti un altro uomo, presentandosi allo stesso modo, e costui risultò essere Mr. Monckton Miles. Poi venne il dottor Forbes e fui sinceramente lieta di incontrarlo. Al venerdì andai al Palazzo di Cristallo. Costituisce uno spettacolo meraviglioso, eccitante, sbalorditivo, un misto di palazzo dei geni e di grande bazar. Ma non è molto nel mio genere. Ho preferito la conferenza. Di sabato ho visitato l'esposizione a Somerset House e circa una dozzina di quadri sono buoni. Il rimanente è di poco valore. Domenica, ieri, fu un giorno da segnare con una pietruzza bianca. Per la maggior parte della giornata mi sono sentita molto felice e, non essendo né stanca né sovreccitata, di pomeriggio andai ad ascoltare Daubigné, il grande predicatore protestante francese. È stato piacevole, dolce e triste insieme. È stranamente suggestivo udir parlare nuovamente in francese. In quanto alla salute, fin qui sono andata avanti assai benino, se si considera che sono giunta qui lungi dallo star bene. La signora che accompagnò Miss Bronte alla conferenza di Thackeray, di cui si fa cenno qui sopra, disse che appena ebbero preso posto si accorse che Thackeray indicava la sua compagna a parecchi amici e sperò che Miss Bronte non se ne accorgesse. Tuttavia, dopo un certo tempo, durante il quale molte teste si erano girate, molte occhiate erano state gettate per vedere l'autrice di Jane Eyre, Miss Bronte disse: «Temo che Mr. Thackeray me l'abbia fatta». Ma ben presto fu troppo presa dalla conferenza per badare all'attenzione di cui era centro quando non le veniva direttamente manifestata, come nel caso di Lord Carlyle e di Mr. Monckton Miles. Quando la conferenza terminò, Mr. Thackeray scese dal palco avviandosi verso di lei e le chiese che cosa ne pensasse. Me lo disse lei stessa, non molti giorni dopo, aggiungendo alcune osservazioni quasi identiche a quelle che successivamente lessi in Villette, dove viene descritta una scena simile. Mentre il nostro gruppo lasciava la sala, lui stava ritto sulla soglia. Mi vide, mi riconobbe, si tolse il cappello e disse: «Qu'en dites-vous?» Domanda caratteristica che mi rammentò, perfino in quel suo momento di trionfo, la sua insonne inquietudine, quell'assenza di quanto io considero un desiderabile autocontrollo che fa parte dei suoi difetti. Non gli sarebbe dovuto importare chiedere in quel momento che cosa ne pensavo io o che cosa ne pensasse chiunque altri, ma gli importava ed era troppo naturale per nascondere, troppo impulsivo per reprimere il suo desiderio. Bene, se biasimai la sua eccessiva ansia, mi piacque la sua naivete. Avrei voluto lodarlo, avevo il cuore colmo di lodi, ma ahimè, le parole non mi salirono alle labbra. Chi ha le parole adatte al momento giusto? Balbettai alcune espressioni zoppicanti, ma fui veramente contenta quando altre persone, sopraggiungendo con profuse congratulazioni, coprirono la mia deficienza con la loro ridondanza. Mentre si preparavano a lasciar la sala, la sua compagna vide con sgomento che molti degli intervenuti si disponevano su due file da una parte all'altra della corsia centrale dalla quale dovevano passare per giungere alla porta, rendendosi conto che qualsiasi indugio avrebbe aggravato la prova per la sua amica, prese Miss Bronte a braccetto e precedettero lungo la duplice siepe di visi curiosi e interessati. Durante il percorso attraverso la crema della società, la mano di Miss Bronte tremava a tal punto che la sua compagna temeva di vederla venir meno e non osò esprimerle simpatia o tentare di farle coraggio, accentuando la stretta o sussurrando le parole di conforto per paura di provocare la temuta crisi. Certo, una così sconsiderata manifestazione di curiosità è una macchia sullo stemma della vera cortesia. Il seguito di questa sua visita a Londra, che fu la più lunga di quante ne fece, sarà riferita dalle sue stesse parole. Mi metto a scrivere in un inesprimibile stato di prostrazione, avendo trascorso l'intera giornata di ieri e dell'altro ieri con un mal di capo in graduale aumento, che si fece fortissimo e culminò in una nausea violenta, così che questa mattina sono debolissima e pallida. Avevo sperato di lasciarmi le cefalee alle spalle a Haworth, ma sembra che me le sia portate dietro accuratamente riposte nel baule e mi hanno dato molto fastidio da quando sono giunta qui. Da quando ti scrissi l'ultima volta, ho visto molte cose meritevoli di essere descritte, tra le quali la grande attrice francese Raquel. Ma oggi, in verità, non ho energie sufficienti per farlo. Posso solo dirti arrivederci di tutto cuore. Non posso vantarmi che Londra mi sia stata confacente questa volta. L'oppressione dei frequenti mal di capo, la nausea e uno spirito depresso hanno avvelenato molti momenti che altrimenti sarebbero stati piacevoli. A volte ho sentito quanto questa situazione sia dura e ho provato la tentazione di ribellarmi contro il destino che mi costringe a un relativo silenzio, a una relativa solitudine durante 11 mesi dell'anno e nel dodicesimo, mentre mi offre i piaceri della vita mondana, mi toglie il vigore e la gaiezza che mi permetterebbero di goderne. Ma le circostanze sono ordinate dall'alto per noi e ci dobbiamo sottomettere. Alla tua lettera avrei dovuto rispondere ieri, ma uscii prima dell'arrivo della posta e rimasi fuori tutto il giorno. La gente è molto gentile e forse in un secondo tempo sarò grata per quello che ho visto, ma sul momento la stanchezza mi prova molto. Giovedì scorso il marchese di Westminster mi invitò a un grande ricevimento al quale avrei dovuto recarmi accompagnata da Mrs. D., una bella e credo anche gentile signora, ma rifiutai l'invito con decisione. Venerdì pranzai dove incontrai Mrs. D e Mr. Monckton Miles. Sabato andai a vedere Raquel. Un'esperienza meravigliosa, terribile, come se la terra si fosse spaccata profondamente davanti ai miei piedi, rivelando una visione dell'inferno. Non la dimenticherò mai. Mi fece rabbrividire fino al midollo. Certamente un qualche demonio si è incarnato in lei, prendendovi dimora. Non è una donna, è un serpente. Domenica andai nella cappella dell'ambasciatore spagnolo, dove il cardinale Wiseman, nei suoi paramenti arcivescovili e con la mitra in capo, cresimava. L'intera scena era empiamente teatrale. Ieri, lunedì, mi vennero a prendere alle 10 per fare la prima colazione con Mr. Rogers, il poeta patriarca, quasi centenario, a cui chiunque scrive si sente in dovere di far visita. Vi trovai Mrs. D e Lord Gleneg, nessun altro all'infuori di loro. Fu certamente un pasto molto calmo, raffinato, intellettuale. Finita la colazione, venne Sir David Brewster per accompagnarci al Palazzo di Cristallo. Avevo nutrito un certo timore per questa spedizione, perché Sir David è un uomo di profondissima scienza e temevo che mi sarebbe stato impossibile capire le sue spiegazioni sui meccanismi, eccetera. In verità, non sapevo neppure quali domande fargli? Comunque ogni fatica mi fu risparmiata. Senza essere interrogato, diede ogni spiegazione nel più gentile e semplice dei modi. Dopo 2 ore trascorse all'esposizione, durante le quali, come puoi ben pensare, mi sentii molto stanca, dovemmo andare da Lord Westminster e spendere altre 2 ore a guardare i quadri della sua splendida galleria. A un'altra amica scrive: Avrei dovuto dirti che ho trascorso un mese a Londra la scorsa estate. Quando verrai, potrai farmi tutte le domande che vuoi in proposito e risponderò nel miglior modo in cui la mia inceppata lingua sarà capace. Non insistere molto sul Palazzo di Cristallo. Ci sono andata 5 volte e certamente vi ho visto delle cose interessanti e il Coup d'œil è senz'altro tale da sbalordire, ma non sono mai stata capace di estasiarmi in proposito e ogni visita successiva fu fatta più perché costretta che di mia libera volontà. È un luogo eccessivamente turbolento e, dopo tutto, le sue meraviglie interessano quasi esclusivamente l'occhio, raramente toccano il cuore o la mente. Faccio eccezione in questa mia ultima asserzione per coloro che possiedono una vasta conoscenza scientifica. Una volta vi andai con Sir David Brewster e mi sono resa conto che guardava le cose con altri occhi che i miei. Miss Bronte tornò da Londra passando per Manchester e si fermò in casa nostra per un paio di giorni alla fine di giugno. Il tempo era così caldo e lei stessa talmente stanca per i suoi giri londinesi che facemmo ben poco se non restare sedute in casa con le finestre aperte a conversare. L'unica cosa che si ostinò a fare fu trovare un regalo da portare a Tabby. Doveva essere uno scialle, o meglio ancora un grande fazzoletto da puntare intorno al collo e alle spalle, secondo la vecchia moda campagnola. Miss Bronte si diede un grande affare nel cercarne uno che piacesse alla vecchia domestica. Appena arrivata a casa, indirizzò la seguente lettera all'amica di cui era stata ospite a Londra. Haworth, 1 luglio 1851. Cara Mrs. Smith, eccomi una volta di più a casa dove, ringraziando il cielo, ho trovato papà in buonissime condizioni. Il viaggio fino a Manchester fu alquanto polveroso e caldissimo, ma abbastanza piacevole. I due corpulenti signori che riempivano parte della vettura quando vi entrai scesero a Rugby, così due altre signore e io avemmo tutta la carrozza per noi fino alla fine del percorso. La visita a Mrs. Gaskell costituì una lieta interruzione del mio viaggio. La canonica di Haworth presenta un vero contrasto, ma perfino la canonica di Haworth non ha nulla di cupo in questa splendida estate. È silenziosa, ma con le finestre aperte posso udire uno o due uccelletti che cantano su certi arbusti spinosi in giardino. Mio padre e le domestiche mi trovano un aspetto migliore di quando partii da casa, e io stessa mi sento meglio grazie al cambiamento. Lei è troppo simile a suo figlio per far sì che sia consigliabile parlar molto della sua gentilezza durante la mia visita. Tuttavia, non si può fare a meno di accennarvi. Papà mi incarica di ringraziarla a nome suo e presentarle i suoi rispetti, il che eseguisco con la massima considerazione per lei e la sua cerchia, mi creda sinceramente sua, Charlotte Bronte. Capitolo 10. Subito dopo il suo ritorno a casa, l'amica prediletta andò ospite da lei. Durante il soggiorno di questa a Haworth, Miss Bronte scrisse la lettera di cui riporto un brano. Il forte senso e il giusto sentimento di amicizia che vi esprime è sufficiente a spiegare il costante affetto che Miss Bronte ottenne da tutte le persone che le furono amiche. A W. S. Williams, 21 luglio 1851. Non potei fare a meno di chiedermi se Cornhill cambierà per me, come Oxford è cambiata per lei. Ora vi sono connesse alcune piacevoli associazioni mentali. Se ne altererà il carattere un giorno o l'altro? Forse è possibile. Benché confidi nel contrario, visto che io penso di non esagerare nella mia parzialità, penso di accettarne i difetti insieme a quanto vi è di eccellente, le macchie insieme alle bellezze. Inoltre, per quanto riguarda l'amicizia, ho notato che le delusioni in proposito nascono principalmente non dal nostro voler troppo bene agli amici o dal pensare troppo altamente di loro, ma piuttosto da un'eccessiva valutazione di quanto essi amino e apprezzino di noi. E se ci guardiamo con sufficiente scrupolo da questo errore, e se saremo soddisfatte, anzi felici, di dare più affetto di quanto ne riceviamo, se saremo in grado di confrontare le situazioni e saremo rigorose nel trarne le conseguenze senza permettere all'egoismo di accecarci, beh, penso che riusciremo a procedere con coerenza e costanza, senza essere amareggiate da quella misantropia che nasce dal mutamento improvviso del sentimento. Quanto scritto ha un che di metafisico, ma ben considerato è semplice buonsenso. La morale da ricavarne è che se vogliamo costruire qualcosa sul sicuro fondamento dell'amicizia, dobbiamo amare gli amici per amor loro piuttosto che per amor nostro. Dobbiamo guardare alla loro sincerità verso se stessi tanto quanto a quella che hanno verso di noi. Nel secondo caso, ogni ferita all'amor proprio genererebbe freddezza. Nel primo, solamente un qualche penoso cambiamento nel carattere e nell'inclinazione dell'amico. Una qualche paurosa incrinatura della sua indole più vera potrebbe alienare il nostro cuore. Quanto debbono essere state interessanti per lei le chiacchiere della vecchia cugina sui suoi genitori e quanto gratificante l'accertare che i ricordi vertevano solamente su fatti e caratteri piacevoli. La vita deve, in verità, scorrere lentamente in quel piccolo borgo dove va in progressiva rovina, in mezzo alle colline di gesso. Tutto considerato, ne sono certa, vai meglio essere logorato dal lavoro in mezzo alla folla che non perire per inazione in una stagnante solitudine. Non dimentichi quanto sopra ogni volta che si sente stanco del lavoro e del trambusto. Ricevetti una lettera da lei di poco posteriore a quella più sopra, e benché in essa vi siano evidentemente continui riferimenti a quanto devo averle scritto io, il contenuto è così caratteristico che non so indurmi a metterla da parte senza citarne alcuni brani. Haworth, 6 agosto 1851. Cara Mrs. Gaskell, ho avuto un tale piacere dalla sua lettera quando l'ho finalmente ricevuta da non sentirmi più disposta a brontolare per il ritardo. Una quindicina di giorni fa ho ricevuto una lettera da Miss Martino, anche quella lunga e esattamente impostata sugli stessi argomenti che tratta lei, cioè l'esposizione e l'ultima conferenza di Thackeray. È stato interessante mettere i due documenti fianco a fianco, studiare il duplice aspetto di cui sono l'espressione, inquadrare alternativamente la medesima scena attraverso due visioni differenti. La diversità è addirittura impressionante, e tanto più impressionante in quanto non si tratta del rozzo contrasto tra il buono e il cattivo, ma di una più sottile opposizione, di una più delicata diversità fra due tipi di bontà. L'eccellenza di una indole rassomiglia, penso, a quella di un rimedio sovrano, forse aspro al palato, ma atto a dar vigore. Il buono dell'altra sembra vicino alla nutriente efficacia del pane quotidiano. Non è né amara né troppo dolce. Piace, senza lusingare il palato. Sostiene, senza imporsi con la forza. Concordo con lei pienamente in tutto quanto dice. Per amore della varietà quasi vorrei che la concordia delle nostre opinioni fosse meno completa. Incominciamo da Trafalgar Square. Il mio gusto si associa completamente al suo e a quello di Meta. L'ho sempre considerato un bel sito e anche un bello spettacolo. La veduta dall'alto di quella scalinata mi ha sempre colpita per la sua grandiosità e imponenza, inclusa la colonna di Nelson. Farei volentieri a meno delle fontane. Anche rispetto al palazzo di cristallo la penso esattamente come lei. Sono convinta che ha giudicato giustamente la conferenza di Thackeray. Fa bene a mettere da parte odiosi paragoni e ad irritarsi per le meschine chiacchiere circa il niente di nuovo. Parole saccenti che dimostrano semplicemente in coloro che ne fanno uso una facoltà di giudizio ottusa e debole, una incapacità di discernere il valore relativo dell'originalità e della novità, la mancanza di quella raffinata percezione che, sapendo fare a meno dello stimolo di un argomento sempre nuovo, sa ricavare sufficiente godimento dalla freschezza con cui viene trattato. A simili critici, le prime ore di un mattino estivo non darebbero piacere, poiché sono impegnati a rimproverare la cuoca che non ha saputo preparare un piatto nuovo e stuzzicante per la prima colazione. Insensibili alla suggestione del sorgere del sole, della rugiada e della brezza. Niente di nuovo in tutto ciò. E l'esperienza della famiglia di Mrs. che ha influito sui suoi sentimenti verso i cattolici? Beh, confesso di non potermi rammaricare per questo inizio di cambiamento. Buone persone, ottime persone, non ne dubito, se ne trovano tra i cattolici. Ma il sistema non è tale da meritare la simpatia che lei gli concede. Guardi il papato che si toglie la maschera a Napoli. Ho letto la Saints Tragedy, in quanto a opera d'arte mi sembra nettamente superiore sia a Alton Locke che a East. Può contenere errori, essere scritta in modo rozzo e disuguale, tuttavia alcune parti fanno vibrare le più profonde corde del cuore umano, toccato da una mano forte anche quando trema. Ci mostra, penso, che Elisabetta non ha mai avuto una mente del tutto sana. Dal tempo in cui era, come dice di sé con esagerata umiltà, una fanciulla idiota, fino all'ora in cui giace sul letto di morte, una sottile vena di follia corre lungo tutta la sua esistenza. È cosa buona e vera. Una mente salda, un sano intelletto avrebbe messo al muro il potere dei preti, avrebbero difeso i suoi cuccioli. Sarebbero stati fedeli al marito e ai figli come la sua piccola Maggie, dal cuore leale, lo fu per il suo Frank. Solamente una mente indebolita da un fatale difetto poteva essere influenzata, come lo fu, quella di questa povera santa. Ma quale angoscia, quali lotte! Piango raramente per quanto leggo, ma questa volta, mentre leggevo, le mie lacrime piovevano. Quando Elisabetta volge il viso verso la parete, mi sono interrotta. Nient'altro occorreva. Profonde verità sono toccate in questa tragedia, toccate, non approfondite. verità che suscitano una peculiare pietà, una compassione calda di indignazione e amara di pena. Questo non è il sogno di un poeta. Sappiamo che queste cose sono state fatte, che delle menti sono state devastate e delle vite distrutte. Mi ricordi cordialmente e rispettosamente a Mr. Gaskell, e benché non abbia visto Marianne, devo chiederle di includerla nell'affetto che confermo agli altri. Le riuscirà di far giungere un bacetto alla cara ma pericolosa personcina di Giulia? Pian pianino si è impossessata di un frammento del mio cuore che da quando l'ho conosciuta non mi appartiene più. Mi creda, sinceramente e affettuosamente sua, Charlotte Bronte. Il riferimento che ella fa alla fine delle lettere riguarda la più piccola delle mie bambine. Fra queste Charlotte era nata una forte attrazione reciproca. La bimba aveva preso l'abitudine di infilare la manina in quella di Miss Bronte, appena più grande della sua, e ambedue prendevano piacere da questa carezza che credevano inosservata. Tuttavia, quando una volta dissi a Giulia di guidarla fino a una stanza che desideravo farle conoscere, Miss Bronte si ritrasse. Oh, non le chieda di fare qualcosa per me, disse. È stato così dolce fin qui accogliere le sue piccole, spontanee gentilezze.